Buonasera a tutti quanti da Mr. Cocot e un'altra Radio Roma. Ripasso il microfono a Mr. Gasperino. E Mr. Gasperino saluta tutti i suoi fans e nonché i fans di un'altra Radio Roma che, come dicevamo da lunedì scorsa, ha eseguito e ha avuto la prima vittoria di una battaglia lunga. Di una battaglia che abbiamo vinto, ma la guerra è molto molto lunga. E vedremo che cosa succederà nei prossimi anni, nei prossimi secoli. Ci riferiamo a che cosa? Alla liberalizzazione del diritto d'autore da parte del nuovo governo Monti, quindi un decreto legge del Consiglio dei Ministri. Fresco fresco. Di domenica, due domeniche fa, se ne è parlato. Ci ha fatto caso che certe notizie passano quando lei non legge i giornali, Mr. Cocot? Guardi, e sinceramente io i giornali ho smesso di leggerli. Al massimo io compro riviste musicali, magari quando lei... e ne compro dei fumetti, ragazzi. Io compro i fumetti e compro il magico, il mitico, l'eroico Zagor, che mi ha insegnato molto nella nostra vita, nella mia vita di tutti i giorni. Lealtà, coraggio e fantasia. Giustizia e fantasia. E fantasia, il grande Zagor, il mitico Zagor Tenai. Loro sono la Dame Bianche, vengono da Berlino, ossia dalla Germania, e ci presentano questo rock alternativo. Il brano si intitola Closer. Sono veramente, cioè, voglio spaccano, dire, spaccano un bel pochetto. Abbiamo voluto iniziare con loro perché ci sono piaciuti veramente tanto. Ma questa sera io e lei, che cacchio ci siamo venuti? Questa sera, ragazzi, prima di tutto dobbiamo dire il nome della puntata, perché ogni nostra puntata oggi siamo all'NR011. Esatto. Stasera si chiamerà Nartra Intervista. Intervisteremo i righezzini. intervisteremo i righezzini di Morena, i famosi per noi Cernit. Autoproducono, autosuonano e sono stati in concerto il 14 e il 15 gennaio a Roma, il 14 sì. A San Lorenzo, il 15 al Pigneto, insieme anche a dei nostri amici molto lontani che già un anno fa li conoscevamo e ci piacevano, l'Officina della Camomilla. Ah, l'Officina Camomilla. Hanno fatto il concerto insieme a loro. Ma effettivamente ricordano per certi sonorità l'Officina Camomilla. Stanno bene insieme, stanno sì, bene insieme. Sì, li scopriremo questa sera su un'altra Radio Roma e attraverso questa programmazione che si intitola un'altra intervista. Fuso Radio. Adesso andiamo avanti con un'altra etichetta romana, è la Stirpe 999. Yes. Ed è uscito adesso un album fresco fresco, Index 04, che potete sia comprare sia comprare il digipack, cioè il solido toccare. Comunque io l'ho comprato e vi faccio ascoltare la traccia di Ori. Questa è 3-2-Run. Un'altra Radio Roma. Stirpe 99. Loro sono di Roma, ricordatevelo ragazzi. Andate sul sito, su Blogspot, cliccate Stirpe e vi uscirà. Loro. Leggete, diffondete, mangiate, comprate e ascoltate. E ora, Mr. Gasperino, vuoi mandarci una traccia un po' black metal, death metal, growl, extreme metal, sludge metal? Esta noche de amor. Ed era Xavier direttamente dalla terra di Spagna. Questo pezzo un po' stonato, un po' urlato, un po' gagliardo, ragazzi. Sì, perché io credo che la musica a volte debba essere anche un po' così stonata, strillata. Sguaiata. Però ha un non so che di talento il ragazzetto. Ricordiamo che viene dalla Spagna. Lui spagnolo realmente. Il pezzo è Lo Mas Lejos Que Caiga. Ottimo, questo io lo so, io lo ricordo perché è la, io lo so parlare lo spagnolo, che io mi ascoltavo sempre. Quando? Da quale sito? Da lo dica Giamendo. Da Giamendo. Da Giamendo. Perché poi alla fine, cioè, vabbè, però ci stava. Ci stava nel suo stile. Un nel po' mio così stile. È uno stile che abbiamo chiamato prima, è uno stile tossico. Tossico, sì, così, sì, secondo me. Giusto, sì, giusto. Sì, oppure potrebbe essere, per dare un'immagine, il classico tifoso del Barcellona che esce dallo stadio dopo la partita, che senza voce gli hanno fatto registrare il pezzo. Gli ha vinto lo scudetto. E gli hanno fatto registrare il pezzo e non c'aveva voce. E perciò c'è la gaiezza e la felicità e la sguagliataggine. Esatto. Io allora adesso vi riporto un po'. A proposito di sguagliataggine. A proposito di sguagliataggine, ragazzi, vi riporto subito un'altra etichetta, Efedrina Net Label. Guardi la foto di questo ragazzo, guardi la foto. Stupendo, stupendo. Una foto stupenda. Dicevo, Efedrina Net Label, etichetta di Roma, artista MKMN99. L'assomiglia. Questo è l'album in dub, We Trust, dubstep, e la traccia è God Feelings. Mi sembra che sia Efedrina 018, ragazzi. Andate a controllare sul sito, scaricate, diffondete, mangiate, Nartra Radio Roma. Aspettando Cernit. Creative Commons Net Label. Efedrina Net Label, nata nell'aprile 2010, condotta da non si sa. Comunque era l'Efedrina 018 MKMN99, direttamente da Copenaghen, in Dub We Trust. La traccia è Gut Feelings. Adesso Mr. Gasperino, quando si sarà il spicciato per tutto quello che ha intorno, è lui, la voce di Mr. Gasperino. Ma sa, mi diverto ad ascoltarla. Certe volte lei riesce a intrattenermi senza dir nulla, e questo è una sua capacità, gliene rendo merito. E che cosa è accaduto in questi giorni, Mr. Cogot? Io ne sono proprio felice. Lei non può comprendere quanto sono contento io di vedermi. No, quello no. È successo che hanno liberalizzato il diritto d'autore. E hanno anche liberalizzato... No, basta, solo quello, purtroppo solo quello. Hanno liberalizzato il diritto d'autore, che significa imparare povere. Cioè, il diritto d'autore che cos'è? È la paternità di un'opera, scritta, letteraria, musicale, un film, un dipinto, una fotografia, un'opera d'arte. La paternità viene riconosciuta nel momento in cui essa nasce. Al momento in cui nasce, questa viene già riconosciuta. Però ci sono degli organi che tutelano questi diritti. In Italia, intorno al 30, è nata la SIAE e ha mantenuto lo Stato simbolo, io direi quasi uno Stato dittatoriale nei confronti... Uno Stato dittatorialus. Dittatorialus nei no, confronti simbolus, dei diritti d'autore. Oggi è stato liberalizzato. Che cosa accadrà? Non lo so, però, intanto però, noi continueremo a presentarvi sempre licenze alternative a quelle della SIAE, che sono appunto quelle Creative Commons, come quella di questi ragazzetti. Ricordiamoci. Questi ragazzetti che stiamo ancora ascoltando sotto. Questo è uno. Ma tutti questi numeri uno si confonde. Uno si chiama MKMN99 da Copenaghen. Copenaghen. È forte. Come questo, io vorrei passarle. Però ricordiamo, prima di passare il pezzo, la frase famosa che liberalizzazioni senza controllo sono nulle. Certo, no, ci deve essere una sorta di no, su questo ha pienamente ragione, secondo me ha detto una cosa intelligente. Certo, e salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo, chi non ci ascolta e chi ci ascolta e chi ci ascolterà. Chi ci ascolterà anche in futuro, su radio, perché questa è puntata, sarà replicata, andrà in replica, andrà Fuso radio. A proposito di curiosità, le volevo dire, ho preparato una piccola curiosità. Se lei è un curioso? Mentre io sono curiosone, guarda. Mentre lei curiosisce e si incuriosa, le volevo leggere una piccola notizia di oggi che ho trovato su Ansa. E poi lei nel frattempo prepari un pezzo, sì, e così lo lancia come se fosse piovuto dal cielo. Le leggo il pezzo e poi lo commentiamo. È pronto? Allora mando il pezzo. Mandi il punto, io mando il pezzo e poi ne parliamo. Bravissimo, tutti P. Nudi contro l'immunità parlamentare. I deputati del partito slovacco liberale Libertà e Solidarietà SAS hanno manifestato a Bratislava per l'abolizione di uno dei privilegi goduti dalla classe politica. Sulla foto pubblicata sulla rete social network Facebook troverete 17 deputati, di cui 14 uomini e 3 donne del partito, che posano tutti nudi in fila, sorridenti, nascondendo le parti intime, naturalmente, con lo striscione con la scritta "Togliamo l'immunità ai deputati". Ora, in Italia... Una bella foto, prego. Perfetto, dopo questo pezzo punto pazzo, il pezzo che dopo vi annuncerò. Fuso radio. Solo il meglio per me. Solitudine, solitudine. Crema Liquido su un'altra Radio Roma. Veramente potenti, ti si sliquida il cervello. Forti, con questa sono... musica forte. Bravi, sono bravi, bravi, sono bravi. Bravi. Mi trovate su Jamendo da Bruxelles. Ma che, da Vercelli? No, Jamendo da Bruxelles. Ah, sì, c'è molto tempo. Complimenti. Complimenti, complimenti, veramente. Adesso complimenti allora per la trasmissione. Dobbiamo continuare a fare del male alla gente, al cervello della gente. Sì. E ci sentiremo i Kevlar Project. Ce l'ha? C'ho i Kevlar Project che dovranno venire a fare un'intervista. Sì, stanno preparando un disco. Al termine della loro produzione saranno qui ai nostri microfoni per raccontare la loro esperienza. E adesso io vi faccio ascoltare Kevlar Project, terza traccia, Nemmeno Giuda. Questa, la ficcata. La ficcata, come il gruppo che ha passato antecedentemente dall'Efedrina, che veniva da, ha detto? Da Milano, no, quello NKMN, che veniva, Copenhagen, Danimarca. Dalla Danimarca ha trovato un'etichetta romana che ha prodotto un prodotto da produrre. E comunque diamo un po' di notizie, un po' di festival che stanno arrivando sotto Creative Commons. Ricordiamo 4 febbraio sabato 4 febbraio 2012-2020 Indie Festival, Sostanza Record Party. Dove? Dove? Linit Club. Hanno riaperto Linit? Sì, via della stazione Tuscolana 133. Non Roma. Fate come l'ultima volta che avete portato tutte quelle cose e poi l'hanno chiuso. Bravo, i DJ che si disputeranno il palco saranno Basker Droid vs Microman, perfetto, Cybernova, Il Cobra, Redbox, Bebop e Flux. Perfetto. E noi ci saremo. Un'altra radio Roma c'è come The Open Radio. Un saluto a Dario. Ciao Dario. 4 febbraio sostanze record. 4 febbraio sostanze record. Se si ricorda, mentre lei cerca il pezzo, sì, il pezzo io poi lo lancerà al momento l'ascolto opportuno. Se si basa la musica, io l'ascolto riesco a alzare il suo volume. Grazie. Fuso radio. E adesso radio. Sigla della nostra Nartra intervista, puntata ennesima di interviste qui a Nartra Radio Roma. Mister Cogot e Mister Gasperino che si sta preparando per il jingle di Nartra intervista. 3 2 1 0. Nartra intervista. Intervista su Nartra Radio Roma. Radio Roma. Eccezionale. Eccezionale. Io direi veramente eccezionale. Un'altra intervista. Intervista. Un'altra Radio Roma. Radio Roma. Nella carbonara ce la mette la cipolla. Cipolla. Cipolla. Tipo di cipolla. Sotto licenza Creative Commons. Un'altra intervista. Intervista. Un altro modo di domandare. Un'altra intervista. Intervista. Per sapere di tutto. Un'altra intervista. Intervista. Per parlare su tutto. Su tutto. Su tutto. Su un'altra Radio Roma. Radio Roma. Importante. Importante. Importante. Un'altra intervista. Importante. Importante. Importante. Importante. Importante. Importante. Importante. Importante. Un'altra Radio Roma. Importante. Importante. Importante. La musica Creative Commons non è smessa. E basta. Eccoci, eccoci, eccoci, finalmente arrivati al punto clou di questa serata, quella dei Cernit. Intanto per incominciare diciamo che questa trasmissione, che ormai ha quasi un anno, si è consumata anche la sigla, come avete sentito a un certo punto è saltata. Dovremmo rimetterci le mani, Mr. Cogot, e lo faremo molto presto. Questa sera abbiamo una formazione quasi al completo, perché uno è rimasto a Milano per motivi affettivi e non diciamo nient'altro. Lo prenderemo in giro durante questa trasmissione, perché con noi gli assenti sono colpiti. Allora, farei così: cominciamo a presentare i nostri amici. Loro sono i Cernit di Roma Sud, e cominciamo così. Cominciate a presentarvi proprio voi, microfono in mano, chi siete? Vabbè, io come gruppo, vabbè, già l'hai detto te, siamo i Cernit, e niente, qui presenti siamo Lorenzo e Paolo. Paolo, e Paolo, Francesco è rimasto a Milano. Lo distruggeremo stasera. Esatto. E ascolta, Lorenzo e Paolo. Lorenzo suona? Io, allora, è una storia lunga. Noi vogliamo conoscere voi, quindi non è che siamo qui per parlare di lui, che non ce ne frega niente dei Cocot. Allora, siamo per conoscere voi. Sì, esatto, siamo tutti comodi. Chi conosce questa trasmissione sa che entreremo nel conoscere voi superficialmente e anche dentro di voi. Quindi ci proviamo anche con voi. Quindi Lorenzo, tu suoni? Guarda, io ho cominciato con la chitarra e suono ancora la chitarra, ma per necessità del gruppo mi sono ritrovato con un basso in mano praticamente. Perfetto. E è andata così anche per gli altri, perché Paolo ha cominciato col basso e adesso suona la chitarra invece nel gruppo, e mio fratello anche ha cominciato con la chitarra ma adesso suona le tastiere. Quindi avete mischiato tutti quanti gli strumenti ed è uscito fuori Cernit. Sì, esatto, proprio esattamente quello che l'hai detto tu, quello che significa Cernit e quello che siamo precisamente. Perfetto. Altra domanda la faccio a Paolo. La vostra scelta musicale, cioè quindi io vado proprio sul particolare artistico, viene da ogni gruppo ha una scelta, una storia, magari dice ti piacciono i pezzi, ma perché non rifacciamo i pezzi di, e si parte dalle cover per poi trovare se partiamo proprio, dalle cover proprio... noi cover non abbiamo mai iniziato a farlo. Un gruppo intelligente, grandi quindi li siamo messi subito dentro il tapparella studio, diciamo che è la cantina dove vengono appesi i panni dalla madre di Lorenzo, dove suoniamo, e ringraziamo anche i vicini per questo, che ci sopportano. Meno male non abbiamo una batteria, altrimenti saremmo fottuti. Noi abbiamo fatto la batteria dentro una casa, quindi non ti preoccupare. E niente, non ci siamo mai ispirati, ognuno ha le sue ispirazioni musicali comunque. E niente, non abbiamo mai fatto cover, e forse è meglio così. Quindi siete, diciamo così, completamente ispirati da voi stessi. Dai. O dalla strada. Ispirati, cioè. Ognuno ha le sue... che abbiamo ascoltato magari nella nostra adolescenza, ancora adesso continuiamo a ascoltare, poi vabbè, dipende pure dai momenti, quello che ti ascolti, quello che... Allora facciamo un'altra domanda: se la musica non è ispirata da altri gruppi, voi avete cominciato a suonare perché avete studiato, o siete anche in questo autoprodotti? Anche in questo autoprodotti. C'è da dire che, diciamo, il più formato musicalmente parlando dello studio della musica, insomma, chi sta a legge in pentagramma è quello che sta a Milano, praticamente, è Francesco. È quello che, insomma, riesce a mettere qualche disegnino su qualche disegno cinque sul righe. Pentagramma, sì, insomma. Sì. Perciò partite anche da un pentagramma qualche volta. Guarda, se magari lui ci parte, poi dopo a noi, diciamo che si abbassa un po' i livelli di noi poveri mortali e ci dice ok ragazzi, ci penso io. E invece una canzone come inizia? Ditemi, entrate in una saletta, prima di tutto dov'è che provate, mi avete detto? Allora, lo chiamiamo Tapparella Studio, che è la nostra cantina, a mezzo dei panni, lavatrice, asciugatrice. Ok. Sì, così. Va, dimmi come inizia una canzone e dopodiché manderemo una canzone. Giusto. Ah, le canzoni come cominciano? Almeno quelle dei Cernit, dipende. Molte canzoni sono, magari c'è chi, cioè, nasce prima. Innanzitutto, certe volte creiamo una canzone senza sapere di creare una canzone, certo, magari. E poi... finendo tutti gli altri vengono appresso. Esatto, finendo una canzone che già avevamo fatto, magari uno continua perché non si è ancora stancato di suonare, allora gli altri vanno appresso, vediamo un po'. Il problema a questo punto è quello di che cosa abbiamo fatto che prima. Cosa abbiamo fatto? Lì un po'. E poi poi arriva il momento della pausa e dite, vabbè raga, allora domani vediamo quello che abbiamo tirato fuori. E noi abbiamo tirato fuori dalle tracce che ci hanno mandato, veramente in bassa qualità, veramente lo-fi music, mamma che mia, noi adoriamo. Loro sono i Cernit e questa è Giorni Persi a Nartra Radio Roma. Il mondo questa notte non verrai. We'll be right back. Cernit qui su un'altra Radio Roma. In chiusura di questo pezzo, che ricordo il titolo è Giorni Persi, cantato da Paolo, giusto? Ho detto giusto, ho scoperto il cantante perché non l'avevamo detto, e dei tre lui canta. Allora, uno vive a Milano, uno canta e l'altro sta a Morena. Semplice. Aspetta che vi alzo, ecco, colpa mia, scusate, ecco, ci siete. Allora, ragazzi, stavamo qui discutendo un pochino fra di noi, mentre comunque la musica continua a andare martellante sotto la nostra voce, cominciamo a dire due o tre cose. Allora, vi formate intorno in quale circostanza? Allora, vabbè, l'anno è il 2011, in quale circostanza? Allora, bene. Voi siete amici, vi siete trovati perché volevate suonare, vi siete intruppati con una macchina e avete fatto il CD. Sarebbe stato molto gruppo. Più spettacolare. No, niente, io sono praticamente, i miei sono separati e sono andato a vivere con mia madre in un paese, Artena, vicino Valmontone. Abitavo a Morena insieme a loro, cioè noi amici d'infanzia dall'asilo, medie. Il quartiere è Morena, zona nostra. Quindi per chi non è a Roma, diciamo che è una zona periferica, sì, al sud, periferia di Roma, che fa parte però di Roma. Perché le caratteristiche di Roma è proprio questa, essere così grande che contiene tutto. Prego. E niente, io ecco, sono andato, sono fuggito da Roma e dopo varie vicissitudini mi sono ritrovato a rivivere con mio padre a Roma e non conoscendo nessuno oltre a loro sono riandato da Lorenzo e niente, abbiamo incominciato così a suonare, ma era una cosa molto tanto per, detto vabbè, non sappiamo che, a parte poi la periferia non è che offre tanto, e quindi siamo chiusi in camera oppure andavamo sotto il ciliegio a suonare la chitarra e niente, uscivano le canzoni così. Molto per scherzo, suonavamo con amici, cioè facevamo canzonette così, e poi piano piano Francesco in punta di piedi è entrato e... Francesco ricordo essere mio fratello. Ah, il fratello di Lorenzo oltretutto, quindi tutto in casa e niente, abbiamo incominciato così e... andato... cavolo, sto a fumare, scusate. E è andata così, che stavo dicendo? Ah sì, come nascono le canzoni, sì, è molto per scherzo, diciamo, è uscito lui questo progetto. Abbiamo cominciato a fare le prime serate, i primi contest e abbiamo continuato a fare date. Adesso abbiamo fatto da maggio fino adesso 30 date e siamo organizzati tutti da soli, sempre a Roma, San Benedetto del Tronto e niente, continuiamo con noi e tiriamo. Oh, scusate. No, va benissimo, guarda, va benissimo così. Sì. Io ho ascoltato attentamente questo lavoro che ci avete mandato e la domanda che faccio a Lorenzo è la seguente. I testi che di prima acchito possono sembrare, permettimi il termine, adolescenziali, no? Poi in realtà raccontano e dicono qualcosa che va ben oltre all'adolescenza e vuole riportare in quello che è un circolo che gli antichi greci chiamavano appunto il moto perpetuo della vita, appunto un circolo. E voi un testo nasce semplicemente o cercate di arricchirlo attraverso esperienze o altro, insomma i vostri testi che raccontano, che fanno? Oddio, i testi che raccontano, questo è domandone da un milione di dollari. Io, se tu mi chiedi la tua radio che racconta, io so che dirti, tu suoni e rispondi. Guarda, le canzoni nostre diciamo che raccontano un po', cercano di raccontare comunque le... insomma, quello adesso abbiamo ascoltato Giorni Persi, che magari se viene ascoltata si nota insomma quello che non ci piace di quello che c'è intorno e appunto giorni persi, nel senso tutti i giorni che abbiamo perso a seguire queste cose che non ci piacciono, magari Sanremo, non so se avete, sì, tutta questa cosa qua, quindi cerchiamo forse più di contestare quello che abbiamo intorno molto spesso per che vederlo davanti di... insomma, sì, per sì, renderlo esatto. Concreto almeno sai di giorni persi, ecco, questo sì, è quello sì, che sì. Ho perso. Poi magari ci sono i testi, quelli un po' più sentimentali, come Colera, se poi dopo forse andremo a sentire, e che raccontano un po' quei classici testi, insomma, di storie d'amore perse. No, comunque volevo far sapere a voi che state ascoltando che loro sono stati in concerto il 14 e il 15 gennaio a Roma. Prima a San Lorenzo al Margò e poi al Luchino del Verme, al Pigneto, mi sembra. No, al Fanfulla 101. Al Fanfulla, comunque sempre al Pigneto. Sì, sì. E vi volevo chiedere, voi avete suonato insieme a un altro gruppo che noi conosciamo benissimo, che sono l'Officina della Camomilla. Che salutiamo, forse li stanno ascoltando. Salutiamo. Il primo che ho conosciuto era Francesco De Leo. Ah. È con lui. Lui mi ha mandato le prime tracce e l'ho mandato su un'altra radio Roma, guarda. Perciò vi volevo chiedere, prima, come li avete conosciuti loro e se c'è qualche assonanza fra voi e gli ufficiali del Camomilla, anche se voi siete molto differenti, si capisce. Guarda, noi... cosa vi ha comune, insomma, fra due? Allora, la mancheria, nessuno dei due ha la batteria, quindi questo ci accomuna, questa è una cosa proprio oggettiva. Noi li abbiamo conosciuti grazie alla ragazza di mio fratello, che abita a Milano, giustamente, che conosce Claudio Tarantino. E è andato a sentire un concerto, gli ha proposto, insomma... sentitevi Cernit, se vi piacciono magari abbiamo qualche possibilità di farvi venire giù a Roma e farvi suonare. Noi abbiamo con questa cosa già li conosciamo da prima, mi sa, già l'avevamo sentiti così su YouTube e ci erano piaciuti e niente, siamo riusciti a farli, a trascinarli giù a Roma, loro contentissimi anche perché qui c'hanno un fan club, un seguito, noi abbiamo il podcast che abbiamo fatto sulle tracce che mi ha mandato Francesco De Leo, ancora si chiamava Camomilla, che è uno dei podcast più scaricati, è tipo 700 scarichi uno e 500 quell'altro, perciò anche a Roma sono seguiti tantissimo, anche a Fuso Radio sono stati intervistati, Emergenza Radio, che è un'altra radio, sempre la web radio qui di Roma, io sono conosciuto infatti loro pure con Francesco, diciamo, una data qualcosa, sì, sono state due serate spettacolari, poi vabbè Paolo ha organizzato tutto, ha preso le mani in mano, le redini proprio, e ha fatto il manager degli uffici della Camomilla a Roma praticamente e niente, sono due serate da paura, al pienone, c'è stata la possibilità che andate su a Milano, hanno detto qualcosa, sì, c'è la possibilità che riusciamo anche noi a salire su, nessuna porta chiusa, insomma. Guarda, adesso voglio mandare un altro pezzo, loro mi dicevano di mandare Colera, però io voglio mandare invece la traccia che a me mi piace di più ed è Era un valzer. Ah, quella ti piace di più? Quella che mi piace di più. Quella registrata proprio più male in assoluto. Lo fai for the life. Sei pronto, Mr. Gasparino? Vai. Scriverò un racconto. d'estate, d'estate. Romanticismo delle puttane, i nostri viaggi e i tuoi respiri. Parlavamo e poi non parlavamo più, non parlavamo più. Forse scriverò un giorno una canzone d'amore. Questa è la canzone che più piace a Mr. Cocot dei Cernit. Sì. Abbiamo detto, era un valzer, è il secondo brano che sentiamo di questa formazione romana milanese. A questo punto. A questo punto no, visto che c'è un gemellaggio con l'officina della camomilla, con la ragazza del fratello che quando sta qui sta con Francesco dell'Officina. Quando, giusto, no? Ho capito tutto. Allora, a parte gli scherzi, allora, i progetti abbiamo visto, no? Chiacchierando, sono quelli magari di riuscire ad arrivare a Milano per suonare con gli Officina, preparare magari un EP. Sì. Un EP che con suoni migliori di questi della, si spera, non della è sicuro, cantina della mamma di Paolo, più giusto? Più che altro, no, mia. Più che altro non rendono come rendiamo live, cioè io penso che live rendiamo molto di più del CD. Ma questa è l'impressione di chi ci ascolta almeno, quindi... Sì, questo è il problema magari anche che avreste creandolo in un CD, forse qualche problema. Chi riesce live normalmente sul CD fatica un pochino a... Comunque è preferibile far, cioè io almeno preferisco magari i gruppi che senti sul CD e un po' ti piacciono, poi a sentirli a live dici porca miseria, questi certo, spaccano, certo. Che magari il contrario. Ma sai che c'è, quando ci sono i contenuti e uno hai un bravo professionista dall'altra parte che riesce a esaltarti le varie partiture, probabilmente anche suonando così come suonate voi con tre strumenti e una voce, riesce meglio piuttosto che ascoltare una registrazione così, no? Dipende molto da quello. E comunque poi lo approfondiamo fuori onda questo discorso e andrei avanti con l'Officina della Camomilla, dice Cocot, che si dia, ci potrebbe stare un brano dell'Officina della Camomilla in concomitanza con i Cernit. Allora, a questo punto mandiamo Colera. Colera è la traccia esatta per questo istante. Cernit a Nartra Radio Roma. Io farei una cosa, permettetemi. Presenti Colera dei Cernit. Oddio, che emozione. Dai, dai. Questo momento la presentiamo. I stessi Cernit presentano la canzone dei Cernit, si chiama Colera. Il conte che conta conteggia il conto alla rovescia e vi mandiamo Colera, ascoltatela, bomba. Sono le 6:35, direzione Battistini. Questo binario non si muove, non c'è niente da fare. Siamo qui mortali, tirando calci al nostro tuo d'acciaio. Ma un altro treno comunque passerà e che bruci pure adesso. Parigi, ci toccherà perderti per sempre, ci toccherà morderci per sempre, ci toccherà prendere il colera e che bruci pure adesso. Parigi, ci toccherà perderti per sempre, ci toccherà morderci per sempre, ci toccherà prendere il colera e che bruci pure adesso. Parigi, ah! tuo friggitore? Grazie. Erano i Rolling Stone, ci dicono la regia, i Cernit con Colera, Colera che è la traccia dove si sono impegnati di più per registrarla, abbiamo detto, vero? Sì, sì, no, a parte scherzi. Cerchiamo di capire che loro hanno iniziato da, da poco, non a suonare, a cimentarsi con quella che è la tecnologia magari per registrare eccetera, quindi magari avere qualcuno che vi possa aiutare e indirizzare sarebbe insomma un tecnico audio o qualcuno che così voi pensate solo alle canzoni magari, no? Eh già, che è la cosa più, diciamo, è un po' meglio, cioè è un po' meglio, non si dice, però vabbè, vabbè. No, vabbè. Ci può stare, ci può stare. Ma se tu dovessi dire a una persona, no, ci sarei trovato milioni di volte, penso, a fare un discorso del genere, il motivo per cui cioè, tu devi dire: oh ragazzi, io ho fatto, sono in un gruppo, perché ti dovrei ascoltare? Oddio, non l'hai fatta nessuno sta domanda. Ma se non lo stavi all'altra Radio Roma, scusami. Allora perché io dovrei ascoltare i Cernit anziché magari, ecco, Officina Camomilla, che è un altro ottimo gruppo. Allora io penso, o Cocot. Io penso che comunque i Cernit siano musica da ascoltare prima di digerirla. Cioè, più che altro io penso, mo no, per essere, diciamo, un po' fanatico, che o de parte, ma io penso che comunque è abbastanza musica complicata, comunque. E per complicata che cosa intendi? A parte è difficile da digerire, ma anche come... Stai attento a quello che dici, Perché? Gli hai detto musica complicata. Vabbè, complicata perché non abbiamo ritornelli in alcune canzoni, tendiamo a mandare sempre avanti un testo invece che ripetere ritornelli. Cerchiamo più di mandare un messaggio che... uno stereotipo di canzone, diciamo, ritornello, strofa, ritornello. E quindi ci, okay, piace così un po' la difficoltà. Lo spiego per chi è profano della musica. La musica, per funzionare, ha un intro, ha una strofa, che poi ha una seconda strofa, poi ha un ponte, alla fine ha un ritornello. Questo sistema aiuta la gente mentalmente a seguire la musica. Esatto. E loro stanno dicendo che non rispettano questi schemi. E sfondano questi schemi proprio perché vogliono dare un sistema diverso. Guarda, una volta una persona mi ha detto, ascoltando, gli ho fatto ascoltare, insomma, le nostre canzoni, e dopo una settimana, insomma, ci siamo rivisti, mi fa: Lorenzo, lo sai qual è il problema? Che i Cernit stufano, nel senso che tu vai con una trama, no? Cominci con una melodia, poi cambia, perché tutte le canzoni cambiano, e poi tu con l'orecchio cerchi sempre di andare a carpì il momento in cui ritorna la melodia che c'era prima, e invece senti, ti stanca proprio questa cosa, perché non lo sentirei mai, anzi il momento in cui speri che ricomincia la trama di prima, boh, ne prende un'altra ancora, una terza melodia diversa, e questo ha detto che stanca. Però insomma, noi, cioè, noi speriamo che tutti capiscano questa cosa e che stanchiamo a tutti quanti. Quindi Paolo, comunque, nel senso, nel dire canzoni complicate, noi abbiamo abolito tutti i virtuosismi che si sentono, nel senso, non ci piacciono, ormai abbiamo capito che gli assoli ci stufano proprio, cioè nel senso, nel momento in cui una canzone è bella, poi comincia l'assolo di chitarra, va, tutti e tre cambiamo, non ce la facciamo più a sentire assoli di chitarra, comunque uno strumento che sovrasta sugli altri, non ci piace più. E quindi, diciamo, complicato nel senso questo, magari cerchiamo di sfondare gli schemi e soprattutto di togliere virtuosismi che molto spesso aiutano anche alla riuscita della canzone. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. No, ci sta nel contesto loro, ci sta tutto. No, certo, non era un discorso su tutti quanti, era un discorso solo per noi e basta, il nostro punto di vista. E appunto, allora, dopo questa domanda che ci ha stremato. No, sta sudando. Stiamo sudando, ragazzi. Adesso io vi farò una domanda veramente stupida. Okay, okay. Una domanda leggera, leggera, leggera. Tipo, per esempio, i vostri artisti preferiti. Beh, inizia tu. Basilare, allora, di Mr. Cocotte questa domanda, perché lui è interessato solo a quello. aspetta, voglio spiegarvi perché voi non sapete ridere scena. Se voi aveste ascoltato tutte queste puntate di un'altra intervista, avreste scoperto che Mr. Cocot, di tutto quello che ci siamo detti fino ad ora, non gliene è fregato un cazzo. Lui vuole solo sapere, da tutti quelli che passano, che ascoltavano e comincia a dirti: ah, io l'ho visti, ah, quelli, ma ce l'ho, vedrai, vai. Sarà imparziale. Guarda, guarda, io per farti proprio Beatles. No, non so Beatles, yeah, no. Allora, guarda, io proprio ti comincio dai primordi. Okay, cioè, vabbè, la prima volta mi sono avvicinato alla musica. Tenete forte, però. No, sono curioso. No. E la prima volta da bambino, quando ho capito che comunque la musica mi piaceva, insomma, certo, ho cominciato a sentire la musica, a capire che cos'era la musica. Gli 883 li stavo sotto da bambino. Ero proprio. Però li abbiamo ascoltati tutti quanti, gli 883. Cioè, tipo, come quando... mai te la ricordi? Come mai? Cioè, quello è veramente un super. Il mio primo passo verso la musica è stato gli 883, ma ero piccolo, quindi io non mi ricordo l'età, non so. Era il 91. No, quanti anni? No, io avevo un anno, non nel 91, quindi. Gli 883 li sentivo nel 91. Che album ascoltavo? Guarda, io mi ricordo che mio padre mi comprò il best of, quindi già stavano al best of. Alla fine. Poco prima mi ricordo 90, perché il primo CD che io ho comprato è stato quello di Grazie Mille, quindi stavo proprio alla fine degli 883. Sì, vabbè, stavo alla fine. Gli 883. Sì, vabbè, tolta sta parentesi, sì, comunque, cioè, basta, cioè questa l'ho voluto. Poi quando è che ti sei svegliato e hai scelto di seguire? Un po' più tardi, grazie a mio fratello. Okay. Mio fratello è praticamente 3 anni più grande, quindi ha fatto nuove esperienze. Si è avvicinato pure lui al rap e io proprio... Ne so, il fratello maggiore, non so se è per tutti, almeno per me è stato così, insomma, punto di riferimento, capito? Quindi quello che fa lui è giusto, quello che fanno gli altri è sbagliato. E quindi è passato al rap, io pure sono entrato subito dentro il rap con le del Fomento. Beh, ecco, questo già è ancora con le del Fomento. Sì, vabbè, non ti dico dove l'ho visto allora. No, tu pensa, io ho visti Erpiotta, faceva il freestyle, c'aveva l'occhialoni e non era nessuno. Già c'aveva l'occhialoni. Sì, c'aveva l'occhialoni e veniva a fare freestyle ai concerti di Frankie Energy, di quello del Fumetto. E non era nessuno. Sei così con i capelli tutti mori. Vai. E poi mio fratello arrivò al liceo artistico e da lì, insomma, è cambiato un po' tutto quanto, quindi siamo avvicinati, ci siamo perché lui si avvicinava e io gli andavo dietro sempre, e ci siamo avvicinati un po' al rock, magari prima quello progressivo, anche grazie a mio padre ancora adesso c'ha solo un gruppo in mente, che sono Le Orme, c'ha solo quelle, no, penso in mente. Dio. C'ha solo quelle, ah, un po' di PFM, che fatto, perfetto, che ci non sta. Fa male. Insomma, questo rock progressive che ci ha aiutato, insomma. Insomma, possiamo dire che si sono un po' riscattati dagli 883. Dai, no, quello l'ho fatto solo per dai, farti dai, un dai, po' dai, fastidio, no, ma no, però ci sta, perché i gusti sono gusti alla fine, e dai, gusti. Vabbè, tutti abbiamo cominciato, cioè non era colpa mia se io sentivo quella canzone. Guarda, noi rispettiamo tutti i gusti fuori da casa mia. Ah, ok, quindi... fuori da questa radio. Prendo il microfono io e... Io da che porta. Ho iniziato... Beh, io sarò un po' più attempato, quindi. Vabbè, io iniziai forse con Vasco Rossi. Però parliamo di Vasco Rossi. I primordi? Sì, sì. Quando cantava la Festa dell'Unità. Sto a parlare proprio. Vabbè. Ma no, vabbè, stiamo. Queste sono le domande di Cocotte che fregano solo a lui. Vabbè, no, sì, e io invece voglio fare una domanda molto più attuale. Adesso che ascoltate. Guarda, da poco c'è da poco io mi sono chiuso veramente in maniera epocale con i Cure, in maniera proprio boh, sto a dire, come quelle canzoni che sono martellanti, ormai sono martellante sui Cure, e adesso ci stiamo anche formando, insomma, girando per la musica emergente romana soprattutto. E insomma abbiamo visto, siamo andati anche al Circo degli Artisti e fanno serate su questi gruppi emergenti, e niente, sono certi gruppi che sono fantastici e capisci proprio in quel momento, appena finito il concerto tu vabbè vai a casa, vai a incendiare tutti i tuoi strumenti e no vabbè, dici, ma secondo me bisogna, sai che c'è, ogni gruppo, ogni formazione, allora sull'underground ti diciamo noi che esiste un mondo, ok? Che poi le etichette, Sanremo, la Rai o quello che ti pare a te non sponsorizza, questo ormai è un dato di fatto, e per fortuna che esiste internet, come dicevamo all'inizio di questa trasmissione, c'è stato un decreto legge grazie al popolo di internet. È vero, cioè sono state liberalizzate i diritti d'autore, quindi questo è merito anche nostro in qualche modo. Ce lo perché chi era quella? E vabbè, e mentre Cogot vede le foto porno, vabbè, vado avanti. Mi hai distratto. Dicevo, alla fine che cosa accade? Che nell'underground c'è veramente tanto, ma io dico a tutti i gruppi, a tutti quanti, ogni persona, ogni soggetto è a sé e ogni soggetto ha qualcosa da raccontare. Se questo qualcosa è valido, vedrete che in qualche modo ci sarà un ritorno. Se quello che tu racconti è detto, già stato detto, semplicemente non è valido, lì dove l'unico giudice è il pubblico, ci abbiamo poco da dire, ok? Sì, certo. E ti dico questo di fronte al fatto che molti gruppi si spaventano guardando i gruppi grossi, ma il gruppo grosso dietro c'ha anche quello che ti fa uscire il suono in una maniera, è quello che ti esalta la voce, ok? E poi i gruppi grossi spesso non fanno quello che vorrebbero fare, fanno quello che gli dicono che devono fare, perché funziona, se no non funzionerebbe, certo. Ok? Detto questo, io dico che quello che voi fate a noi in qualche modo a risulta, se diciamo, no? E che è internazionale, ormai anche in America sanno che significa a risulta, a noi ci a risulta, e vi diciamo andate avanti, magari sì, sperimentate, aggiustate, miglioratevi, non vi sentite mai arrivati, questo è importante, no. Perché sennò sarebbe finita la cosa. Avete intenzione di allargare il progetto o vi va bene così? Noi, questa è una decisione molto difficile. La prendiamo qua. Mangiamo fuori quello di Milano. Rimaniamo in due. Intanto quello. Francesco, non tornare mai più qui a Roma. No, forse volevamo allargare il gruppo mettendo una batteria. E comunque pensiamo che ci serva in qualche modo. Perché molte ritmiche sembrano sospese dentro le canzoni. E forse una batteria ci servirebbe. A cercare il batterista, diciamo. The son of Mr. Gasparino. Ci serve il batterista, insomma. Comunque, batterista. Così. Oddio, qual era? Io perché mi scordo? La domanda era che io da giovane ascoltavo gli Spandau Ballet. sono rimasto indietro, troppo indietro, troppo avanti. No, ma voi pensate, la domanda era anche riferita a progetti magari fuori da Roma. Semplicemente progetti, cioè tu hai detto che vorreste fare un EP. Ah, e sì. Ti chiedo quale altri progetti, cioè uno magari in mente può avere, sì, l'EP a breve scadenza. Guarda, noi poco tempo fa ci siamo accorti che i contest non ci aggradano. Ok, e contest, non ci allietano, no. Quindi i contest li abbiamo proprio eliminati. Quella solita cosa, entri, c'hai l'ansia di finire i tre pezzi in 15 minuti, tutto de corsa, così non ci piace. E i nostri progetti adesso sono quelli di suonare il più possibile, cioè in maniera tale che tartassiamo la rete online, in maniera tale che la gente vede, oddio, questi stanno sempre a suonare, allora forse ci avranno qualcosa. E quindi cercheremo di assellare tutti i locali di Roma, tutte le persone di Roma, e questo è così. L'EP dovrebbe chiamarsi Quei Bravi Ragazzi. Che poi abbiamo anteprima assoluta anche qui a Nartra Radio Roma. Sì, non abbiamo mai detto da nessuna parte. Avete preso molte decisioni qui. Troppe adesso sarete che poi castrati. Abbiamo saputo che c'è anche un film che si chiama Quei Bravi Ragazzi. L'abbiamo saputo dopo. Ma Goodfellas, dici? No. No, Quei Bravi Ragazzi proprio si chiama. Sarebbe Goodfellas. Ah, non lo so, la traduzione, certo. In inglese non la so. È lei. Niente, questo EP da 5 tracce dovrebbe insomma risollevare il nostro morale, almeno in fatto di registrazioni e cose del genere. Buono. Sì. Varie vicissitudini ci hanno portato anche a fare una copertina degna di questo nome. Di no. Sì, quindi. Vogliamo dire chi è che ha disegnato questa copertina? Guarda, la foto in copertina l'ha fatta Francesco, okay. È milanese. È milanese. Zitto. che sta sempre prima, di più prima. Sta sempre di più rischiando il posto. Sì, sì. Io, visto che il tempo è tiranno, dice qualcuno, andrei a chiudere questa intervista conoscitiva dei Cernit con un brano che è il sintesi, la sintesi di tutta questa trasmissione che io e lei abbiamo fatto, Mr. Cogot, che si intitola Stavamo aspettando. Noi aspettavamo i Cernit e ve li abbiamo presentati. Adesso vi presentiamo anche il loro brano. Presentato una nuova formazione qui da questi microfoni. Loro erano i Cernit, un gruppo romano veramente forte, diciamo anche nuovo, no? Nuovissimo, nuovo, fresco di non d'amicizia ma di produzione. Sì, sì. Io farei così, se lei è d'accordo, Mr. Cogot, lascerei il microfono ai nostri amici per farci quello che gli pare e poi ne passeremo ai saluti. Vabbè, intanto io faccio lo spam attivo, quindi no? E, seguiteci tutti quanti su Facebook, MySpace e Twitter, che è la faccia oscura della pubblicità. E niente, siamo su Google, ci trovate come Cernit Band, su Facebook Cernit Band, insomma scrivete Cernit Band ovunque e ci trovate. E niente, passo il microfono a Lorenzo e ciao ciao. Vabbè, poi altre cose, ci sono dei live in programma l'8 febbraio, 9 febbraio allo Spazio Ebro, e dovremmo suonare con Provincia Zen. Poi il 18 febbraio con i tre che vedono il re all'Out Out, quindi insomma ce ne sono, se vi piacciamo. Oddio, mi sembra di stare dei club. No, no, va benissimo, va benissimo. Avete avuto il vostro tempo e non ne avrete mai più. Mai più. Un'altra radio. Un'altra radio. Allora, io, Mr. Cogot, ringrazio tutti quelli che ci sono stati e che non ci sono stati. Che ci hanno ascoltato. E Francesco che sta a Milano. Certo, maledetto. Ringraziamo Francesco che sta a Milano e non deve più, mai più, tornare qui a Roma. Ringrazio Paolo e Lorenzo e Cernit. Grazie a voi. Come al solito, questa puntata sarà replicata nuovamente su Fuso Radio dalle 18 alle 19.30. Chi se l'è persa potrà andare a riscaricare il podcast che appunto si trova su Fuso Radio. E nel frattempo Mr. Cogot vi voleva dire un sacco di novità che non ve le dirà perché gli ho rubato il microfono. E io saluto tutti i nostri ascoltatori, ringrazio tutti quelli che permettono la fluidità della musica libera. Fluidità, che c'entra con Cogot? Lei si dissocia, io lo so. Un'altra intervista. Su un'altra Radio Roma.